Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Quarta puntata. I rapporti umani. Al centro della nostra vita sta il problema dei nostri rapporti umani. Appena ne diventiamo consapevoli, cioè appena ci si presenta come un chiaro problema e non più come una confusa sofferenza, prendiamo a ricercarne le tracce e a ricostruirne la storia lunga tutta la nostra vita. Nell'infanzia abbiamo soprattutto gli occhi fissi al mondo degli adulti, buio e misterioso per noi. Esso ci sembra assurdo, perché non capiamo nulla delle parole che gli adulti si scambiano fra loro, né il senso delle loro decisioni e azioni, né le cause dei loro mutamenti d'umore, delle loro collere improvvise. Le parole che si scambiano gli adulti fra loro non le capiamo e non ci interessano, anzi ci annoiano infinitamente. Ci interessano invece le loro decisioni, che possono spostare il corso delle nostre giornate, i malumori che offuscono i pranzi e le cene, lo sbattere improvviso di porte, lo scoppio di voci nella notte. Abbiamo capito che in un momento qualunque, da un tranquillo scambio di parole, può scatenarsi una tempesta improvvisa, con rumori di porte sbattute e di oggetti scagliati. Noi vigiliamo inquieti ogni minima incrinatura violenta nelle voci che parlano. Succede che siamo soli assorti in un gioco ed improvviso s'alzano nella casa quelle voci di collera. Seguitiamo meccanicamente a giocare, a conficcare sassi ed erbe in un mucchietto di terra per fare una collina. Ma intanto non ce ne importa più niente di quella collina. Sentiamo che non potremmo essere felici finché la pace non sarà tornata in casa. Le porte sbattono e noi sussultiamo. Parole rabbiose volano da una stanza all'altra. Parole incomprensibili per noi. Non cerchiamo di capirle né di scoprire le ragioni oscure che le hanno dettate. Confusamente pensiamo che dovrà trattarsi di ragioni orribili. Tutto l'assurdo mistero degli adulti pesa su di noi. Tante volte complica i nostri rapporti col mondo dei nostri simili, i bambini. Tante volte abbiamo con noi un amico venuto a giocare. Facciamo con lui una collina e una porta sbattuta ci dice che è finita la pace. Ardendo di vergogna, fingiamo di interessarci moltissimo alla collina. Ci sforziamo di distrarre l'attenzione del nostro amico da quelle voci selvagge che risuonano per la casa. Con le mani diventate a un tratto molli e stanche, conficchiamo accuratamente dei legnetti nel mucchio di terra. Siamo assolutamente certi che in casa del nostro amico non si litiga mai, non si gridano mai selvagge parole. In casa del nostro amico tutti sono educati e sereni. Litigare è una particolare vergogna di casa nostra. Poi un giorno scopriremo con grande sollievo che si litiga anche in casa del nostro amico, allo stesso modo come da noi. Si litiga forse in tutte le case della terra. Siamo entrati nell'adolescenza quando le parole che si scambiano gli adulti fra loro ci diventano intellegibili. Intellegibili ma senza importanza per noi, perché ci è diventato indifferente che in casa nostra regni o no la pace. Ora possiamo seguire la trama delle liti domestiche, prevederne il corso e la durata, e non ne siamo più spaventati. Le porte sbattono e non sussultiamo. La casa non è più per noi quello che era prima, non è più il punto da cui guardiamo tutto il resto dell'universo. È un luogo dove per caso mangiamo e abitiamo. Mangiamo in fretta, prestando un orecchio distratto alle parole degli adulti, parole che ci sono intellegibili ma che ci sembrano inutili. Mangiamo e scappiamo nella nostra stanza di corsa per non sentire tutte quelle parole inutili e possiamo essere molto felici, anche se gli adulti intorno a noi litigano e si tengono il muso per giorni e giorni. Tutto quello che ci importa non succede più fra le pareti di casa nostra, ma fuori, per la strada e a scuola. Sentiamo che non possiamo essere felici se a scuola gli altri ragazzi ci hanno un po' disprezzato. Faremo qualunque cosa per salvarci da questo disprezzo. Facciamo qualunque cosa. Scriviamo delle strofette comiche per piacere ai nostri compagni e le recitiamo loro con buffe smorfie di cui dopo ci vergogniamo. Facciamo raccolta di parole sconce perché ci stimino un poco. Andiamo a caccia di parole sconce per tutto il giorno fra i libri e i vocabolari che abbiamo in casa. E poiché ci sembra che fra i nostri compagni abbia successo un modo di vestire vistoso e sfarzoso, noi, contro la volontà di nostra madre, ci sforziamo di insinuare nei nostri abiti sobri qualcosa di un po' vistoso e volgare. Confusamente sentiamo che se ci disprezzano è soprattutto per colpa della nostra timidezza. Chissà, forse quel lontano momento in cui facevamo una collina di terra col nostro amico e le porte sbattevano e risuonavano voci selvagge e la vergogna ci bruciava le guance, quel momento forse ha gettato in noi le radici della timidezza. E pensiamo di dover spendere la vita intera a liberarci della timidezza, a imparare a muoverci nello sguardo degli altri, con la stessa baldanza e sbadataggine di quando siamo soli. La nostra timidezza ci appare come il più grave ostacolo a ottenere la simpatia e il consenso universale. E abbiamo fame e sete di questo consenso. Nelle nostre fantasticherie solitarie ci vediamo andare a cavallo, trionfalmente per la città, in una folla che ci acclama e ci adora. A casa, quegli adulti che per tanti anni ci avevano pesato addosso col loro assurdo mistero, noi li castighiamo ora con un profondo disprezzo, col mutismo e l'impenetrabilità del nostro viso. Ci hanno ossessionato per tanti anni col loro mistero e noi ora ci vendichiamo, opponendo loro il nostro mistero, un viso impenetrabile e muto, degli occhi di pietra. E anche ci vendichiamo sugli adulti di casa nostra del disprezzo che hanno i nostri compagni per noi. Quel disprezzo ci sembra che investa non la nostra sola persona, ma tutta la nostra famiglia, la nostra condizione sociale, i mobili e le suppellettili di casa nostra, i modi e le consuetudini dei nostri genitori. Scoppiano d'intanto in tanto per casa le collere d'una volta, magari adesso destate da noi, dal nostro viso di pietra. Ci assale un turbine di parole violento, le porte sbattono ma non sussultiamo, le porte sbattono adesso per noi, contro di noi che restiamo a tavola immobili con un superbo sorriso. Più tardi, soli, nella nostra stanza, si scioglierà d'un tratto quel nostro sorriso superbo e scoppieremo a piangere, fantasticando sulla nostra solitudine e sull'incomprensione degli altri per noi, e sentiremo uno strano piacere a versare lacrime scottanti, a soffocare nel cuscino i singhiozzi. Sopraggiunge allora nostra madre, si commuove alla vista delle nostre lacrime, ci offre di portarci a prendere un gelato o al cinematografo. Con gli occhi rossi e gonfi, ma di nuovo il viso impietrito e impenetrabile, sediamo accanto a nostra madre al tavolino d'un caffè mangiando il gelato a piccolissimi cucchiaini. E tutto intorno a noi si muove una folla di gente che ci sembra serena e leggera, mentre noi siamo quello che c'è di più tetro, goffo e detestabile sulla terra. Chi sono gli altri? E chi siamo noi, ci chiediamo? Restiamo a volte tutto un pomeriggio soli nella nostra stanza a pensare. Con un vago senso di vertigine ci chiediamo se gli altri esistono veramente o se siamo noi che li inventiamo. Ci diciamo che forse in nostra assenza tutti gli altri cessano di esistere, scompaiono in un soffio e miracolosamente risorgono, scaturiti d'un tratto dalla terra non appena guardiamo. Non ci potrà succedere forse che un giorno, voltandoci d'improvviso, non troveremo niente, nessuno? Sporgeremo la testa sul vuoto? E allora non c'è ragione, ci diciamo, di sentire tanta tristezza per il disprezzo degli altri che forse non esistono, che dunque non pensano nulla né di noi né di sé. Mentre siamo assorti in questi pensieri vertiginosi, viene nostra madre a proporci di uscire a prendere un gelato. E ci sentiamo allora inesplicabilmente felici, smodatamente felici per quel gelato che mangeremo fra poco. E come mai una tale felicità in noi, ci chiediamo, per la prospettiva d'un gelato, in noi che siamo così adulti nei nostri vertiginosi pensieri, così stranamente perduti in un mondo di ombre? Accettiamo la proposta di nostra madre, ma ci guardiamo bene dal mostrarle che ne abbiamo un grande piacere. A labbra sigillate, camminiamo con lei verso il caffè. Sempre dicendoci che gli altri non esistono, forse, che siamo noi a inventarli, seguitiamo inesplicabilmente a soffrire per il disprezzo che ci dimostrano i nostri compagni di scuola, per la pesantezza e la goffaggine della nostra persona, così degna di sprezzo a nostro stesso giudizio da fare vergogna. Quando gli altri ci parlano, vorremmo coprirci il viso con le due mani, tanto ci sembra brutto, informe il nostro viso. E tuttavia sempre fantastichiamo che qualcuno si innamori di noi, ci veda mentre prendiamo il gelato con nostra madre al caffè, ci segua di nascosto fino a casa e ci scriva una lettera d'amore. Aspettiamo questa lettera. Ogni giorno ci stupiamo profondamente di non averla ricevuta ancora. Ne sappiamo delle frasi a memoria. Tante volte le abbiamo mormorate dentro di noi. Allora, quando questa lettera sarà arrivata, avremo davvero un ricco mistero fuori di casa, una storia segreta che si intreccerà tutta fuori di casa, perché adesso dobbiamo confessare a noi stessi che il nostro mistero È una povera cosa. È ben poco quel che si nasconde dietro la nostra fronte di pietra che presentiamo ai nostri genitori per il bacio serale. Dopo quel bacio, scappiamo di gran corsa nella nostra stanza, mentre i nostri genitori si bisbigliano domande sospettose su di noi. Al mattino ce ne andiamo a scuola dopo aver fissato con preoccupazione nello specchio il nostro viso. Il nostro viso ha perduto la vellutata delicatezza dell'infanzia. Noi pensiamo allora con rimpianto all'infanzia, a quando facevamo delle colline di terra, e il nostro solo dolore era se litigavano in casa. Adesso in casa non si litiga più così spesso. I nostri fratelli maggiori sono andati ad abitare per conto proprio. I nostri genitori sono diventati più vecchi e tranquilli. Ma della casa non ce ne importa più niente. Camminiamo verso la scuola, soli, nella nebbia. Quando eravamo piccini, nostra madre ci accompagnava a scuola, ci veniva a prendere. Adesso siamo soli, nella nebbia, terribilmente responsabili di tutto quello che facciamo. Ama il prossimo tuo come te stesso, ha detto Dio. A noi questo sembra assurdo. Dio ha detto una cosa assurda, ha imposto agli uomini una cosa che è impossibile attuare. Come amare il nostro prossimo, che ci disprezza e non si lascia amare? E come amare noi stessi, spregevoli e pesanti e tetri come siamo? Come amare il nostro prossimo, che non c'è forse ed è solo una folla di ombre, mentre Dio ha fatto noi, noi soli, e ci ha messi qui, su una terra che è un'ombra, soli a nutrirci dei nostri vertiginosi pensieri? Abbiamo creduto in Dio da bambini, ma adesso ci diciamo che forse non esiste. Oppure esiste e non gliene importa niente di noi, perché ci ha messo in questa situazione crudele e allora è come se non esistesse per noi. Pure rifiutiamo a tavola una pietanza che ci piace e passiamo la notte sdraiati sul tappetino della nostra stanza per mortificarci e punirci dei nostri pensieri odiosi e per essere cari a Dio. Ma Dio non esiste, pensiamo, dopo un'intera notte passata sul pavimento, con le membra tutte indolenzite e lunghi brividi di freddo e di sonno. Dio non esiste, perché non avrebbe potuto inventare questo mondo assurdo, mostruoso, questa complicata macchinazione dove un essere umano cammina solo, al mattino, nella nebbia, fra case altissime abitate dal prossimo che non ci ama e che è impossibile amare. E del prossimo fa parte anche quella razza mostruosa, inesplicabile, che è di un sesso diverso dal nostro, dotata di una terribile facoltà di farci tutto il bene e tutto il male, dotata di un suo terribile potere segreto su di noi. Potremmo mai piacere noi a questa razza diversa? Noi che siamo così disprezzati dai compagni del nostro stesso sesso, giudicati così noiosi e da nulla, così inetti e goffi in ogni cosa? Succede poi un giorno che il più ammirato, il più stimato fra tutti i compagni di classe, il primo della classe, si lega a un tratto di amicizia con noi. Come sia accaduto, non sappiamo. Ha posato su di noi a un tratto il suo sguardo azzurro, ci ha accompagnato fino a casa un giorno e si è messo a stimarci. Il pomeriggio viene da noi a fare i compiti. Abbiamo fra le mani il prezioso quaderno del primo della classe, scritto nella sua bella calligrafia aguzza, in inchiostro azzurro. Possiamo copiare il suo compito, che è tutto senza errori. Come ci è toccata una simile felicità? Come l'abbiamo conquistato questo compagno così superbo con tutti, così difficile da avvicinare? Adesso si aggira fra le pareti della nostra stanza, scrollando accanto a noi la sua criniera fulva, tendendo ai noti oggetti della nostra stanza il suo profilo aguzzo, disseminato di lentiggini rose. A noi sembra che un raro animale dei tropici sia venuto, miracolosamente addomesticato fra le pareti di casa nostra. Si aggira per la nostra stanza, ci chiede la provenienza degli oggetti, ci chiede in prestito qualche libro. Fa merenda con noi, sputa con noi noccioli delle prugne giù dalla terrazza. Noi che eravamo disprezzati da tutti siamo stati prescelti dal più inarrivabile, dal più insperato compagno. Perché non si annoi nostra compagnia e non ci lasci per sempre, convulsamente gli parliamo. Buttiamo fuori tutto quello che sappiamo di parole sconce, di film e di sport. Rimasti soli, ripetiamo insaziabilmente le sillabe del suo bel nome sonoro e prepariamo mille discorsi da fargli domani. Pazzi di gioia, prendiamo a immaginarlo in tutto simile a noi. L'indomani ci proviamo a fare con lui quei discorsi che avevamo pensato. Gli raccontiamo tutto di noi, perfino i nostri vertiginosi sospetti che non esistono gli uomini né le cose. Lui ci guarda sconcertato, ridacchia, ci canzona un po'. Allora ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato, che di questo con lui non si può parlare. Ripieghiamo sulle parole sconce e gli sport. Intanto a scuola la nostra situazione è cambiata di colpo. Tutti si mettono a stimarci, vedendoci altamente stimati dal più stimato fra i compagni. Adesso le strofette comiche che abbiamo scritto e che recitiamo sono accolte con applausi e alte strida. La nostra voce prima non riusciva a farsi udire nel frastuono delle voci, adesso si tace in ascolto quando noi parliamo. Adesso ci fanno delle domande, ci tengono a braccetto, ci aiutano nelle cose in cui siamo meno abili, negli sport o nei compiti che non sappiamo fare. Il mondo non ci appare più come una mostruosa macchinazione, ma come un'isoletta semplice e ridente, popolata di amici. Di un così fortunato mutamento nella nostra sorte, noi non ringraziamo Dio, perché adesso a Dio non pensiamo. Ci sembra impossibile pensare a qualcosa che non sia i visi dei nostri compagni festosi intorno a noi, il fluire facile e lieto delle mattinate, le frasi buffe che abbiamo detto e che hanno fatto ridere. E il nostro stesso viso nello specchio non è più qualcosa di tetro ed informe, è il viso che i nostri compagni salutano allegramente al mattino. Sorretti così dall'amicizia dei compagni del nostro stesso sesso, noi guardiamo l'altra razza, le persone di un sesso diverso dal nostro, con meno orrore. Ci sembra quasi che potremmo facilmente fare a meno di questa razza diversa, essere felici anche senza la sua approvazione. Quasi desideriamo di trascorrere la nostra vita intera in mezzo a questi nostri compagni di scuola, a dire frasi buffe e a farli ridere. Poi, a poco, in mezzo alla folla di questi compagni, ne scopriamo uno che è particolarmente contento di stare con noi e al quale ci accorgiamo d'avere infinite cose da dire. Non è il primo della classe, non è molto stimato dagli altri, non porta abiti vistosi. I suoi abiti sono però di un tessuto fine e caldo, simili a quelli che sceglie per noi nostra madre. E camminando con lui verso casa, ci accorgiamo che le sue scarpe sono identiche alle nostre, robuste e semplici, non vistose e leggere come quelle degli altri compagni. Glielo facciamo notare ridendo. Scopriamo a poco che in casa sua ci sono le stesse abitudini che in casa nostra e che lui fa il bagno sovente e sua madre non gli permette di andare a vedere i film d'amore come non lo permette a noi la nostra. È uno come noi, è uno della nostra stessa condizione sociale. Siamo ormai molto stufi della compagnia del primo della classe che continua a venirci a trovare il pomeriggio. Siamo ormai stufi di ripetere le solite parole sconce e al primo della classe buttiamo addosso sdegnosamente i discorsi che ci interessano, i nostri dubbi sull'esistenza. Così sdegnosamente, sbadatamente, con superbia, che il primo della classe non ci capisce bene, ma sorride timido. Vediamo sulle labbra del primo della classe un sorriso timido e vile, ha paura di perderci. Non più incantati dal suo sguardo azzurro, adesso accanto al primo della classe abbiamo voglia dei rotondi occhi color nocciola dell'altro compagno e il primo della classe se ne rende conto e ne soffre e noi siamo fieri di farlo soffrire. Dunque siamo capaci anche noi di far soffrire qualcuno. Col nostro nuovo amico dagli occhi rotondi disprezziamo il primo della classe e gli altri compagni, così chiassosi e volgari, con tutte quelle parole sconce che ripetono sempre. Noi adesso vogliamo essere molto distinti. Col nostro nuovo amico valutiamo la gente e le cose dal punto di vista della distinzione e della volgarità. Scopriamo che è distinto restare ragazzi il più a lungo possibile. Con grande sollievo di nostra madre abbandoniamo tutto quello che avevamo insinuato di chiassoso e vistoso nel nostro vestire. Nel vestire come nel contegno e nelle abitudini cerchiamo un'infantile semplicità. Passiamo pomeriggi straordinari col nuovo amico. Non siamo mai sazi di parlare e ascoltare. Ripensiamo stupiti alla nostra breve amicizia col primo della classe che ormai abbiamo smesso di frequentare. Stare col primo della classe era così faticoso che alla fine ci sentivamo i muscoli del viso irrigiditi dallo sforzo di ridere falso e un bruciore alle palpebre, un pizzicore alla pelle. Era faticoso dover fingere malizia, inghiottire confidenze, scegliere di continuo fra le nostre parole quelle poche che potevano essere destinate al primo della classe. Stare col nuovo amico è un benessere. Non abbiamo niente da fingere né da inghiottire e lasciamo fluire libere le nostre parole. Anche gli confidiamo i nostri vertiginosi sospetti riguardo all'esistenza. E allora ci racconta stupito che ha gli stessi sospetti anche lui. «Ma tu esisti?» chiediamo. E lui giura di esistere. E siamo infinitamente contenti. Questa era dunque la prima parte dei Rapporti umani dalle piccole virtù di Natalia Ginzburg, letta da Michela Cescon per Ad alta voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone. Domani la seconda parte dei Rapporti umani e poi proseguirà su Radio 3 ed è all'interno di Fahrenheit l'omaggio e la lettura dei testi di Natalia Ginzburg. Ricordo soltanto che potete scaricare le puntate, la puntata attuale e quelle precedenti da adaltavoce.rai.it. L'incontro con il pianoforte di Anat Fort, pianista israeliana, e Gianluigi Trovesi, sassofonista e clarinettista italiano. Si sono incontrati in concerti, si sono incontrati in Birdwatching, che è anche l'album della settimana di Fahrenheit, ed è un album che si ispira ai movimenti delle cose in natura, Murmuration.